Si, prima.

vuoi, tu che vuoi, è l'amore che cerchi tu che vuoi, tu che vuoi. Oh, quel nome? Quel nome? nella notte che non ho Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。